programma. Inizia così, allegro e frizzante. Non ci sono più le mezze stagioni di Roberta Giordano. Ed eccoci ogni volta qui a confermarcelo in questa trasmissione, raccontandoci le notizie della settimana, quello che cambia, quello che è sempre uguale. 800 24 0024 è il numero verde al quale vi chiedo di chiamare appena avete formulato i vostri pensieri nella vostra mente quella che è la notizia della settimana che vorreste commentare in questi giorni. Ne sono successe una caterva anche in questi giorni, una cosa incredibile. Ho visto scatenarsi poi sulla pagina Facebook di Non ci sono più le mezze stagioni moltissimo ascoltatrici e ascoltatori, le opinioni sono tante, i fatti infiniti, quindi vediamo un po', andiamo per ordine se possibile, anche sapete che mi piace saltare un po' di qua e di là perché le cose sono veramente un'infinità e tra poco chiederò anche al mio opinionista estemporaneo di oggi di sintetizzare nelle risposte, anche se è un personaggio che può parlare diciamo per giorni e giorni senza tregua, perché sono talmente appunto così numerose le cose che vi voglio domandare e sottoporre che mi piacerebbe appunto cercare di infilarne parecchie in questa puntata. Comunque vediamo, insomma, tempi permettendo, 800 24 0024, alcune notizie volete sapere? Non mi viene in mente quella che più vi ha colpito, faccio giusto qualche esempio, naturalmente la lettera che il governo italiano ha scritto all'Unione Europea e poi a proposito dei contenuti, tutte le polemiche e i possibili scioperi in vista a proposito dei cosiddetti licenziamenti facili. Ieri poi c'è stato agli Stati Generali del Commercio Estero l'attacco di Berlusconi all'euro, però poi si è smentito poco dopo, cercheremo di capire insomma mi piace o non mi piace l'euro. Poi il Big Bang, per parlare di opposizione, di Matteo Renzi, sapete si tiene questa convention dei cosiddetti rottamatori una 3 giorni a Firenze alla Leopold. Anche qui insomma, capire dove va la sinistra, il centro-sinistra, il PD che fa, è unito, non è unito, non doveva andarci Civati del PD della Lombardia, poi invece ha fatto la sorpresa, si sono abbracciati con Chiamparino, tutto insomma una cosa anche lì in cui bisogna cercare di focalizzare, di distinguere il percorso, il destino, il futuro che vuole fare il PD. E poi le polemiche su Fini, per esempio, che aveva attaccato diciamo la moglie di Bossi definendola una baby pensionata perché è andata in pensione a 39 anni, i disastri naturalmente in Liguria e Lunigiana, la morte di Simoncelli, insomma di notizie ce ne sono veramente un'infinità. Ma e cos'è tra le altre cose che ci conferma che non ci sono più le mezze stagioni? Non ci saranno più le mezze stagioni, ma neanche le intere. Beh, diciamo che è una questione meteorologica, anche se ogni volta mi piace di più fare delle metafore, ma è meteorologica anche questa volta il fatto che non ci siano più mezze stagioni. Prima si parlava di queste alluvioni così devastanti, giusto una volta ogni morte di Papa, e adesso affermano e effettivamente ammettono i climatologi, il clima è cambiato e molto, e anche in Italia ce ne sono almeno 5 all'anno di queste cose. Quindi insomma non ci sono più le mezze stagioni in quel senso, ma anche perché per esempio sapete che ci sono sempre più miopi, uno dice vabbè, difetti visivi, uno ci vede bene da vicino, non ci vede da lontano, ma secondo gli scienziati da cosa dipende questo? Uno pensava è una cosa è semplicemente genetica, invece no, sempre più spesso si diventa miopi perché ci si dimentica di guardare l'orizzonte. Voi vi ricordate il mio saluto finale, diciamo in qualche modo capito in questa cosa. Noi stiamo poco all'aria aperta e guardiamo poco verso avanti, verso l'orizzonte, verso il cielo aperto, verso le prospettive che abbiamo di fronte a noi, forse anche per la crisi insomma che stiamo vivendo, che uno dice il futuro, bah, esiste ancora il futuro, che futuro abbiamo? Ma adesso entriamo nel vivo delle notizie di questa settimana insieme all'opinionista estemporaneo di oggi che è, signori e signori, Sergio Rizzo. Buongiorno. Sergio, stavi raccogliendo le ultime olive, per caso? Ho sentito un po'. Non le ultime, le prime. Le prime olive, perché mi ha detto Sergio, quando l'ho chiamato questa settimana, ma io sabato devo raccogliere le olive. Vabbè, tra un olivo e l'altra riuscirai a dare una risposta sulle tante cose che sono successe in questi giorni. Hai scritto, come non so, il Corriere è stato completamente, diciamo, occupato da te in questi giorni, no. Sergio. E consiglierei tra l'altro di non leggere Sergio Rizzo prima e dopo i pasti, cioè appena vicino ai pasti, perché veramente fa venire una contusione, un blocco di digestione, un travaso di bile. È vero Sergio, perché fai queste cose? faccio questo, faccio il mio lavoro. Io penso che le cose è meglio saperle che non saperle. Credo che così si possa dare anche una mano, no? Possa dare una mano a capire che in che mondo viviamo e magari a cambiare, a migliorare, a risolvere qualche problemino, insomma. Senti, ma tu, a te piace la Maserati? Non per fare pubblicità, insomma, la macchinina. Ma astrattamente sì. No, quelle blindate non non diciamo. Perché tra Sergio Rizzo e Gian Antonio Stella, che sono diciamo amici e compagni d'avventura, scrivono, hanno scritto tanti libri insieme, perché Sergio Rizzo è nota firma del Corriere della Sera, è anche scrittore, con Gian Antonio Stella si divertono, diciamo così, a scrivere spesso dei libri insieme, appunto, soprattutto sui costi della politica, sugli scandali, le inchieste sul denaro pubblico sprecato. L'ultimo libro, ne avevamo parlato qualche settimana fa anche con Gian Antonio, è Licenziare i padri eterni, no? L'Italia tradita dalla casta, perché tante promesse, e tu fra i vari articoli di questa settimana sul Corriere hai scritto anche i tagli alla Camera che invece non ci saranno. Ma la Maserati, ti chiedo se ti piaceva, tu lo sai perché te l'ho chiesto. Sì, sì, lo so. Perché pensate, sono state, allora siamo in un momento di crisi, tagli anche possibilmente si possono fare, soprattutto anche l'esempio, il buon esempio, la politica, i ministeri eccetera. Ebbene, il Ministero della Difesa ha appena acquistato 19 Maserati, che quelle base costano sui 23.000 euro, proprio base, poi blindate con tutti gli accessori, lusso, cioè, non immaginiamo. No, 23.000 non credo, perché penso che una Maserati 4 porte standard costi ben oltre i 100. Lo scriveva Gian Antonio, non so perché lo scriveva Gian Antonio, mi pare oggi sul Corriere l'editoriale. Poi no, lo vado... ma forse lì ci manca uno zero. Forse ci manca uno zero. Guarda, dopo lo vado a recuperare proprio così, diciamo, per precisione matematica. E come mai queste Maserati erano necessarie? Ma dunque, qui secondo me rientriamo nel discorso della miopia, no? Sì, guarda, leggo così, nella versione base 22.361 euro più dell'intero stanziamento, sì, forse manca uno zero, però... Esatto. Sì, no, comunque parliamo di cifre molto, molto... Ma anche a me sembrava strano, perché di solito le utilitarie è un po' più su, costano... No, dicevo la miopia, perché è straordinario la coincidenza, la concomitanza tra la notizia che hai appena dato, no? Del fatto che noi diventiamo miopi perché non guardiamo orizzonti, e queste notizie, perché questa è veramente la dimostrazione del fatto che la nostra classe dirigente non guarda l'orizzonte, no? E non guardando l'orizzonte gli viene la miopia, gli viene una miopia molto molto forte, molto, molto antipatica, perché finisce per non vedere le cose. Per non vedere le cose che ha intorno, e intorno c'è un sacco di gente che non sta meglio di qualche tempo fa, no? Anzi, diciamo, le condizioni di vita degli italiani stanno peggiorando. Non parlo soltanto delle persone che purtroppo, diciamo, non hanno un reddito, diciamo, elevato, parlo anche della cosiddetta classe media, che una volta era la spina dorsale del paese, e che adesso invece è in forte sofferenza, perché viene sempre più schiacciata verso le fasce sociali più basse, no? E questa è una cosa che dovrebbe preoccupare un paese occidentale, un paese industrializzato, un paese nel quale le aspettative fino a qualche anno fa erano delle generazioni successive, erano quelle di migliorare le condizioni rispetto alle generazioni precedenti. Ora invece questo principio è un principio che non c'è più, e quindi in questo senso trovo straordinaria la coincidenza tra la notizia della miopia e questa storia delle Maserati, perché certamente si poteva anche evitare, no? Direi. Tanto più che mi pare che Gian Antonio abbia scritto che ci sono 100 auto blu, no? Sì. Sì. Sono abbastanza equipaggiati, diciamo, e si vede che ogni tanto una si sgonfia una ruota, quell'altra si... Non è che mi pare che abbia scritto che sono 100 auto blu con 14 persone o 15 che ne hanno diritto. Quindi sei auto blu per ogni avente diritto, non so come dire. Diciamo che si trattano bene, se vogliamo dire così. Ma senti, io adesso ti voglio fare una serie di piccole domande prima di sentire tra poco Dino da Grosseto all'800240024, in cui vorrei che tu mi rispondessi brevemente sì o no, vero o falso. Allora, io ti chiedo, la Merkel, sai che hanno fatto i sorrisini con Sarkozy sull'Italia, credibilità di Berlusconi, eccetera. La Merkel, è vero che ha chiesto scusa a Berlusconi o no? Perché lui dice di sì, il portavoce della Merkel dice di no. Dimmi. No. Secondo te no. Beh. Poi invece, si fa o non si fa? No, scusami, ho capito male. Si fa o non si fa? Si fa chi? Il ponte. Non si fa il ponte. Invece l'euro, sai che ieri agli stati generali del commercio estero Berlusconi ha detto non ha convinto nessuno, è una moneta strana. Invece poi ha detto sono state polemiche pretestuose, non è vero, l'euro è la nostra bandiera. Però la Padania oggi titola Bossi, l'uomo che ha salvato le pensioni e che sull'euro aveva ragione, perché lui era un euroscettico. Allora aveva ragione, allora ha detto che l'euro non ci convince, non lo convince Berlusconi. Cosa ha detto? Ha detto di sì, ha detto di no. Ci piace, gli piace l'euro o no? No, a lui non gli piace l'euro. Io ricordo che quando il primo gennaio del 2002 entrò in vigore la moneta unica, lui disse che non sapeva neanche quanto valeva, perché non girava mai con i contanti in tasca. Anche io giro col bancomat, devo dire, però non so se vuol dire la stessa cosa. Lui forse anche non per il gelato il io pago. Io direi di cominciare a sentire, caro Sergio, sentiamo un po' il clima degli ascoltatori, poi vorrei anche leggere qualcosa su Facebook, delle cose scritte tantissime in questi giorni sulle varie notizie, ma dicevo Dino da Grosseto. Sì, buongiorno. Buongiorno Dino. Buongiorno, a parte un inciso brevissimo, presumo che riguarda le Maserati mancasse un 1 davanti al 2. Quindi presumo 123 potrebbe andare molto bene, più sei, che aggiungere uno zero. Sei un intenditore di... No, ma presumo che sia così. Faccio l'imprenditore e vivo anche di questo. No, volevo... Il mio intervento era semplicemente... Non vorrei risultare barboso o palloso, scusate il termine, come si dice Maremma, ma questa faccenda di Simoncelli mi ha colpito particolarmente. Innanzitutto perché era un ragazzo giovanissimo e stava simpatico a tutti, credo. Qualunque persona l'avesse visto in televisione. Il problema però è che vedere tutta questa felicità, tra virgolette, o tutti questi sorrisi, o Valentino che scrive una parola C fine O che non è proprio la migliore possibile sul registro finale, o comunque dare un segnale ai ragazzi che comunque sia fare quello che si vuole nella vita è già una bella cosa e morire può anche andare bene. Io invece sono molto convinto che tutto questo appartenga a, proprio perché faccio l'imprenditore, anche a tutto un grande mondo del commercio e dei media che vivono anche, credo, alle spalle di chi potrebbe conservarsene una vita, e sarebbe anche molto bello, credo, dire era un grande ragazzo, era un grande campione, faceva uno sport pericoloso, state attenti perché si può finire anche così. Dino, mi sembra di sentire un papà mentre parli, tu hai dei figli più o meno? Allora no, io non ho figli, ma ho avuto un grande padre. Hai avuto un grande padre. Io dico questo, Dino, naturalmente la morte soprattutto di una persona giovane così dispiace a tutti. Io credo che però Marco Simoncelli, come anche gli altri piloti che siano di Formula 1 o di moto, sappiano benissimo quello che fanno e guadagnano anche moltissimo, quindi mettono anche in conto il rischio, gli piace fare quella cosa, la fanno, è chiaro, uno può morire anche col motorino sulla strada o la macchina in autostrada, a loro diverte moltissimo questa cosa, certo è un grande business, loro ci guadagnano moltissimo, è chiaro che qualche volta purtroppo le cose possono andare storte, quindi dire ai giovani durante i funerali sì, ha fatto quello che voleva, ma è meglio essere prudenti, non farlo. Certo, poi in genere per chi guida normalmente sulle strade mi sembra un monito quantomeno doveroso. Come promesso, pochi istanti e siamo di nuovo qui, Roberta Giordano con voi, sino più o meno alle 15. Se avete in mente una notizia della settimana che volete commentare qua insieme a me e a Sergio Rizzo, mio opinionista estemporaneo di oggi, la famosa firma del Corriere della Sera, scrittore insieme a Gian Antonio Stella, l'ultimo libro che hanno scritto, è sempre il libro di inchiesta, è Licenziare i padri eterni, l'Italia tradita dalla casta, appunto sulle promesse evase dalla politica, soprattutto a proposito di tagli e di risparmi sui costi della politica. Dicevo, l'800240024 c'è Mario da Verona. Sì, buongiorno Roberta. Buongiorno, è sempre Mario. Un piacere ascoltarti. Grazie, reciproca allora, la cosa. Senti, la mia osservazione riguarda questo famoso, insomma, questa famosa lettera di Berlusconi all'Europa, nella quale appunto viene scritto che ci sarà un provvedimento che faciliterà i licenziamenti. Io credo che sia degno da terzo mondo un provvedimento del genere, perché mi verrebbe a dire che in un paese democratico dove i diritti devono essere sempre più ampliati si cerca di combattere la crisi facilitando i licenziamenti. Ecco, veramente credo che sia una roba vergognosa e che non faccia onore agli italiani, insomma, ecco. Ricordo a chi non lo sapesse che attualmente le leggi prevedono di poter licenziare i lavoratori nei casi in cui effettivamente c'è l'oggettivo motivo. Quindi ripeto, credo che sia veramente poco lungimirante e da sciocchi pensare di combattere la crisi abbassando i diritti dei lavoratori, perché io la vedo in questo modo. Mario, posso chiederti che lavoro fai? Se ti va. Guarda, io sono autoferrotranviere, quindi guido gli autobus. Mi occupo anche di questioni sindacali, quindi mi rendo conto di come funziona il mondo del lavoro. So che la stragrande maggioranza dei lavoratori molto spesso si trova, questo senza voler criticare eccessivamente gli imprenditori, ma si trova sotto ricatto. E quindi mi chiedo appunto che non lo considero un provvedimento degno da paese civile. Ho capito, Mario, sei stato chiarissimo. Allora mi spingi a ritornare sulla pagina Facebook di Non ci sono più le mezze stagioni e a vedere Sergio Rizzo, poi mi direi anche tu cosa ne pensi di questo argomento così delicato, perché vedevo anche che il tuo giornale su online oggi titolava Sacconi, così cambieremo il lavoro, e la CGA che dice licenziamenti più facili, allora più disoccupati. Leggiamo che cosa ne pensano le ascoltatrici e ascoltatori, che riflessioni hanno fatto questa settimana su Facebook. Nel senso, i licenziamenti facili sono, secondo voi, era questa la domanda, possono essere una misura per rilanciare l'economia? Stefano scrive: secondo me no, è solo un modo di aggirare per le aziende in difficoltà gli ammortizzatori sociali. Michele scrive: come può essere che licenziare una persona possa rilanciare l'economia? I lavoratori fanno parte dell'ingranaggio economico, devono essere visti come punti di forza di un'azienda, non punti di debolezza. Luca scrive: in Italia ormai siamo abituati che per ottenere una cosa si fa una misura che mira all'opposto. A volte viene da pensare che amiamo darci la zappa sui piedi da soli. Sonia dice: ma serve davvero una legge per licenziare? Io ho 53 anni, sono in mobilità da luglio, ci hanno licenziati in 70, me la sono sognata questa legge. Morena scrive: questo è il pensiero di Sallusti, per assumere bisogna licenziare. Ieri sera sulla 7 sono inorridita, forse di due sere fa l'intervento di Sallusti. Masa scrive: è imperativo che i contratti a termine costino alle aziende di più di quelli stabili, fino a che la legge incoraggia la precarietà non c'è crescita possibile. Sergio Corriero scrive: potrebbe essere, ma in Italia i furbi usano qualsiasi legge per loro interesse al di là di ogni intenzione benevola, quindi non si fida, dice potrebbe essere ma è meglio di no. Corrado scrive: non sono liberista per ideologia, ma quando anche lo fossi sarei onesto ad ammettere che nella patria del familismo immorale e della meritocrazia zero, i licenziamenti facili servirebbero solo a continuare a garantire il posto sicuro a raccomandati e e ad allargare il numero dei precari. Alino Amato dice: manco per niente sono d'accordo, servirà solo a legittimare ulteriori schifezze come quella dello stagismo a vita, mentre i figli dei ricastri continueranno ad andare nelle migliori scuole private, mette la parentesi, ed avere il posto nella ditta di famiglia con raccomandazione necessaria e sufficiente. E così altre opinioni. Tu che ne pensi, Sergio, di questa cosa? Perché Berlusconi dice: non è vero, è lo stesso Sacconi, non è vero che si parla di licenziamenti facili, è flessibilità. Ma a parte che chiederemo poi alla linguista bene questo termine, flessibilità. Che ne pensi? Dobbiamo fare intanto un passo indietro al 2001, cioè 10 anni fa. Cioè 10 anni fa questo stesso governo ha varato una norma che avrebbe dovuto cancellare l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, no? Quello che tutela, che sostanzialmente vieta il licenziamento senza giusta causa nelle imprese che hanno un numero di dipendenti superiori a 15, sì, se non sbaglio. Sì, superiore a 15. Cioè da 16 dipendenti in su. Ora, allora, posto, e quello del provvedimento lì, però forse non, nessuno se lo ricorda più, ma quel provvedimento lì ha dilaniato la società italiana per... Ci fu un referendum, per anche se non sbaglio. Per due interi anni. Non soltanto, ma a un certo punto venne stralciato da un provvedimento base in cui c'era anche quella cosa lì, è finito in un binario morto e non è mai stato più riesumato, Quindi adesso questo stesso governo che si impegna... Poi c'era stato, scusami Sergio Rizzo, recentemente Sacconi aveva introdotto l'articolo 8, no? Che anche sì, quello ma questo, un po'... Sì, però quello lì è volontaristico, cioè non è una cosa perentoria. Una deroga, è una deroga che funziona soltanto se le parti sono d'accordo. Quindi questo, qui parliamo di un'altra cosa. L'articolo 18, che doveva essere diciamo nell'obiettivo del governo Berlusconi del 2001, il grimaldello, no, per rilanciare la competitività, cioè, non è stato mai approvato. E adesso io trovo abbastanza singolare che un governo che non fu in grado di far passare quella cosa oggi si impegna a farla passare. Ecco, no? Ma allora tu, mi pare che merito, tu sia d'accordo, quindi allora che tu vorresti. No, dunque, nel merito c'è da dire questo, cioè, che le imprese non hanno mai neanche considerato centrale questo problema dell'articolo 18. Perché c'è da dire questo: l'Italia è un paese che ha una quantità sterminata di imprese sotto i 16 dipendenti. Non soltanto, ma spesso e volentieri anche le imprese di media dimensione si organizzano a fare tante piccole imprese sotto i 16 dipendenti per poter avere la libertà di licenziamento. E infatti l'Italia è un paese nel quale la lettera, come ha scritto la signora, di cui non ricordo il nome, che avete citato prima, in Italia si licenzia, si può licenziare. Quindi non c'è bisogno, dici, di un'ulteriore agevolazione. Allora, il punto è il seguente, il punto è dire però qual è l'obiettivo di questa cosa, cioè se noi la facciamo perché l'Unione Europea ce la chiede, oppure se noi la facciamo che c'è qualche altro disegno sotto questo diciamo. Qual è il disegno sottostante, secondo te? No, non lo so, non lo so. Ma siccome penso che questo sia un, io mi ripeto, qui c'è un problema di miopia gigantesco, perché sennò ci si sarebbe già accorti del fatto che l'Italia è un paese nel quale c'è un problema gigantesco di precarietà, non è un ma quindi non sentirebbe... problema che non esiste. Sergio, ma servirebbe a rilanciare l'economia questa cosa? Sinceramente, mi pare che sia un falso problema. Molto bene. Cioè, un paese nel quale ormai diciamo la maggioranza dei rapporti di lavoro sono rapporti di lavoro tipo flessibile, dove il precariato è ormai la regola, un destino, no? Vogliamo, non lo so, può essere pure che abbia un senso questa cosa, ma mi sembra piuttosto singolare. Il punto di vista europeo, da questo punto di vista, è un po' diverso dal nostro, cioè l'Unione Europea ha fatto una sollecitazione che è una sollecitazione di carattere, come dire, di carattere generale, no? Probabilmente loro non hanno ben chiara quella della situazione italiana. La situazione italiana è una situazione dove forse questo vincolo della non libertà di licenziamento riguarda soltanto poche grandi imprese. Allora forse, no? Bisogna chiarirsi che l'Unione Europea ci studi un pochino di più. Adesso invece allontaniamoci un po' dal nostro globo terrestre, andiamo verso l'alto. Prima di fare questo collegamento marziano, voglio darti una specie di scoop. Trichet, governatore uscente della Banca Centrale Europea, ha detto: il messaggio degli indignados è importante, il settore finanziario deve cambiare i propri valori. Riflessioni da Marte. Il mio telescopio qui da Marte quasi si consumava questa settimana a dover osservare senza sosta le miriadi di cose che succedevano sul globo terracqueo e, come sempre, in special modo sul territorio italico. E da questo, diciamo così, marziano monitoraggio si può, per esempio, dedurre che non è vero che con il sopravvento della tecnologia le lettere non si scrivono più, almeno in Italia. Prima, a dire il vero, la scritta alla BCE al governo Berlusconi, poi la scritta a Berlusconi alla UE, Unione Europea, caro Herman, caro cos'è. Poi i ribelli anonimi del PDL l'hanno scritta a Berlusconi per licenziarlo, auspicando insomma il famoso passo indietro. Ma no, niente licenziamenti facili, né per il Presidente del Consiglio né per il Ministro dell'Economia, che si vorrebbero dismettere reciprocamente l'un l'altro. Vai via tu, no, vattene tu, no, prima tu, no, chi lo dice lo fa, e così via. Insomma, va detto che da un po' impazza in Italia questa moda del passo indietro. Un passo indietro faccia Bini Smaghi, chiedono in coro la penisola italica e Sarkozy. Un passo indietro faccia Fini, intimano i leghisti. Un passo indietro lo facciano i Matusa del PD, chiedono i virgulti rottamatori. Un passo indietro ed io già so. Ma tutti a indietreggiare hanno, diciamo così, una certa paura di finire nel burrone. Passo indietro e passo indietro. Intanto, tra una lettera e l'altra, arrivano cartoline da Liguria e Toscana, da un'Italia che frana. Ma oltre a essere stata questa la settimana delle lettere, è stata anche la settimana, come possiamo dire, delle magie. Tanto per cominciare, l'andrangheta, la più terribile delle mafie, è stata abrogata per legge. Sì, nel nuovo codice antimafia varato dal governo per mettere ordine alle norme contro la criminalità organizzata, il termine si è volatilizzato come per incanto. incanto. Il procuratore Grasso indaga e scopre che se lo sono proprio dimenticato. Poi appare, scompare e riappare nei piani del governo il ponte sullo stretto di Messina. Mai altra cosa ebbe tanta sorprendente facoltà di apparire e scomparire senza mai essere neanche esistita. E come per magia scompaiono anche i tagli alla Camera dei Deputati. Scrive Sergio Rizzo, Montecitorio ha infatti chiesto per il 2012, il 2013 e il 2014 gli stessi medesimi fondi del 2011. Ma i parlamentari italiani non sono in realtà gli unici a volersene approfittare. Dovete infatti sapere che qualcuno sta per accaparrarsi il monopolio del broccolo e della patata. Ebbene sì, le grandi multinazionali dell'agroalimentare hanno deciso di brevettare la produzione di vari cibi per strappare al resto del mondo l'esclusiva. State dunque in campana. Se avete un terreno o anche un orticello, potreste rischiare di commettere il reato di coltivazione indebita del broccolo, di produzione della verza da contrabbando, di spaccio della patata clandestina. Sole alla valle, sole alla collina, per le campagne. Torniamo con i piedi per terra. Ci sono tantissimi ascoltatori e ascoltatrici ai telefoni bollenti, dove vi accoglie Alessandro Balia. Per esempio Antonio dalla provincia di Siracusa. Antonio, che ci racconti? Sì, buongiorno. Buongiorno pomeriggio. A te, buon pomeriggio a te Antonio. Sì. Sì, no niente, io ho sentito che Renzi, il sindaco di Firenze, sta rimunendo i rottamatori. Sta? Cosa sta facendo? Sta riunendo in un congresso i rottamatori, diciamo, riunendo in congresso, certo, la convention, scusa, sì, la fa più esotico, no, rottamatori. Sì. No, io lo condivido quando lui cerca di proporre nuove idee, perché la politica ha sempre bisogno del ricambio generazionale, è anche vero, però non lo condivido quando soprattutto attacca gli eroi del PD, come se lui sarebbe di estrema destra. Ad esempio, faccio un esempio per tutti, uno per tutti, facciamo, sì. Di recente lui attaccava la Finocchiaro, no? La senatrice, la capogruppo dei senatori, sì, del PD, sì. Sì, è la capogruppo al Senato del PD. Ma la senatrice Finocchiaro, forse lui non sa perché vive in Toscana. Che ne sanno loro in Toscana? Sì, sì, no, è sindaco ovviamente di Firenze. Non sa che la senatrice poverina si è battuta contro tutte le lobby, contro tutte le destre, e si candidò per la presidenza della regione Sicilia. Sì. Anche se non ci riuscì, però il PD prese una buona presenza, ecco. Lo voglio fare i complimenti a lui, a Renzi, perché anche lui ha scritto di recente, credo che ti ha risposto a proprio di lettere. Gli hai scritto una lettera proprio, caro Renzo? Sì, sì, infatti, caro Matteo, dicevo, guarda, io ti ho attaccato anche alla Radio 24, perché a volte fai delle ragazzate, anche se ti faccio i complimenti e ti condivido. Tutto lì, auguri anche a lei, signora. E dati ascoltatori. Grazie signore Antonio, grazie a te. Che ne pensi, Sergio Rizzo, di Matteo Renzi? Tra l'altro mi pare che ieri in un'intervista Vendola avesse definito Renzi in realtà un conservatore, uno di destra, no, e no. Uno che rottama, pensa di essere giovane ma è più vecchio dei vecchi? Beh, ho capito, perché lui è stato, non è un pivello in politica. Renzi è stato presidente della provincia, no? Sì, già molto giovane infatti. Esatto, molto giovane. Qui, tra l'altro, molto giovane, Renzi ha 36 anni, quasi 37. Per la politica è giovane, c'ha già quattro figli, no, è un uomo che diciamo è andato per avanti. La politica italiana, per la politica italiana è giovane, no, per la politica forse non lo è. Ricordiamo che Clinton diventò presidente degli Stati Uniti, mi pare, a 42 anni, ma comunque adesso al di là di questo, no? Cioè, qui noi siamo un paese dove si rimane dentro casa con i genitori fino a 40 anni, quindi da questo punto di vista la distinzione tra giovane e vecchio è molto labile. Io penso che lui abbia ragione come principio fondamentale, no? Cioè, c'è bisogno di cambiare le persone, perché c'è una cosa da dire, no? questi stessi che, cioè, se noi ci troviamo in questa situazione, la responsabilità è di un'intera classe dirigente. Ora, credo che anche la sinistra abbia la sua responsabilità, e non, la sinistra non è una cosa astratta, la sinistra è fatta di persone, no? E le persone che da vent'anni o anche più hanno la sinistra sono le stesse che oggi invece vorrebbero, no? Tornare a, in qualche modo al governo del paese, questo è. E chissà se chiaro, sono pronti, dice Renzi, fa le sue proposte. No, perché la classe dirigente del PD è la stessa di 20-25 anni fa, no? Bersani è stato ministro già nel 96, quindi 15 anni fa. Adesso è candidato, probabilmente sarà candidato alle primarie, quindi avrà buone probabilità di candidarsi per il premierato. Però è stato presidente della regione Emilia-Romagna. Sempre qui con voi Roberta Giordano, e mio opinionista estemporaneo di oggi è Sergio Rizzo, giornalista del Corriere della Sera, scrittore. L'ultimo libro insieme a Gian Antonio Stella si intitola Licenziare i Padri Eterni. Loro inchieste appuntate, diciamo così, ma sempre molto esaurienti e complete sui costi della politica. Tra l'altro, a proposito della pagina Facebook di Non ci sono più le mezze stagioni, sulla quale hanno scritto moltissimo ascoltatrici e ascoltatori, e vi invito durante la settimana anche a commentare i vari fatti, ti chiede una pura curiosità, qui rispondiamo velocemente Sergio, perché ci sono tanti ascoltatori anche in attesa al telefono. C'è Mariano che scrive: ma come si fa, è una curiosità, come si fa a sapere che sono state acquistate 19 Maserati al Ministero della Difesa, blindate? Quale ufficio ha formalizzato l'acquisto? Dice, tu come lo fai a sapere, per esempio, chi scrive di queste cose? Sono come notizia, così, pura curiosità giornalistica. Abbiamo le nostre fonti, non tutti i giornalisti si creano dei rapporti con delle fonti, spesso anche confidenziali, che poi ti raccontano delle cose. L'importante è che le cose che ti raccontano poi vadano verificate e siano vere. Ecco, in questo caso la cosa è stata verificata ed è vera. Quindi è vera. Gianfranco da Roma, al numero verde 800 24 0024. Gianfranco. Buongiorno dottoressa. Buongiorno, chiamami pure Roberta, Gianfranco. Roberta, grazie. Volevo appunto chiarire che quello che ho letto io sulla Corriere di oggi per quanto riguarda le Maserati, sì. 22.000 euro sono quelli necessari per la blindatura della Maserati. Ma lì dice così? Non dice così? Aspetta, che per farla. Sì, andiamo, perché oltre al costo c'è la necessità della blindatura con 22.000 euro, se ho letto bene. Però tutto questo logicamente ci fa completamente inorridire, Allora, dice: una sola delle 19 Maserati quattro porte comprate dal Ministero della Difesa costa nella versione base 22.368 euro in più dell'intero stanziamento per l'Accademia della Crusca. Vabbè, diciamo che Gian Antonio, bravissimo come sempre, si è dimenticato un 1 iniziale o uno 0 finale, come diceva l'ascoltatore, però tu dici dovrebbe servire quella cifra per la blindatura. Se ho letto bene dovrebbe essere quella necessaria per blindare Ha interpretato Maserati. Forse bene, ma no. Vabbè, comunque adesso un problema di refuso non ci importa, no. La questione è questa, che effettivamente questa spesa è stata fatta, non però è vero, sicuramente, ecco, il fatto anche che un elettore di destra dice che è inorridito e che logicamente tutto questo è veramente allucinante, e do pienamente ragione e faccio i miei complimenti al dottor Rizzo, che è veramente una persona eccezionale. Continuerò sempre a leggere le sue cose in assoluto finché non cambiano qualche cosa in questo benedetto poi se cambia qualcosa non lo leggi più, Sergio Rizzo. No, continuerò a leggere, perché poi molto mente parlerà bene della nostra Italia, siamo grandi. Sicuramente. Grazie Gianfranco. Gianbattista da Bergamo. Gianbattista? Sì, pronto? Eccoci qua. Buongiorno Roberta. Buongiorno Gianbattista. Senta, sì. Io sono un piccolo imprenditore. Trovo che, ma questo non da adesso. Io adesso sono imprenditore, sono stato dipendente per anni. Uh-huh. E già allora, quando ero dipendente, trovavo che il mercato del lavoro fosse troppo rigido. È troppo rigido perché praticamente non solo non si può licenziare, ma addirittura è complicato incentivare le persone, cioè nel senso che quando una persona viene assunta ha quello stipendio, è soggetta solo a aumenti e mai a diminuzioni, e poi non si può differenziare tra le varie persone, quelle che producono di più, quelle che danno più disponibilità rispetto alle altre. Cioè stai parlando di meritocrazia, a parte che cioè, ci sono pochissime leve a disposizione di chi dirige un'azienda per poter premiare quelli che dimostrano maggior disponibilità. È questo. Senti, dimmi una cosa, dimmi una cosa, Giambattista, tu sei convinto, tu da piccolo imprenditore, se mi dici questo ti posso credere, sei convinto che anche nelle varie aziende questo sia il criterio per licenziare o non licenziare, per aumentare lo stipendio o non aumentare? Cioè, la meritocrazia c'è in Italia secondo te? Non c'è la meritocrazia, addirittura ci sono, io parlo soprattutto poi nelle grosse aziende, perché sai, non le piccole, tu li conosci tutti, io lavoro fianco a fianco con i miei, quindi insomma non sono quelli. E li devi che guardare non anche conosco, negli occhi quindi, quando prendi una decisione. Guardo negli occhi, cioè, alla fine sappiamo, lavoriamo spalla a spalla, quindi alla fine anche se uno non lavora un pochettino insomma lo controlli, lo gestisci direttamente, ma soprattutto nelle grosse aziende vengono a mancare i meccanismi, diciamo, per poter premiare quelli che rendono di più o per castigare quelli che rendono di meno. O questo addirittura risulta una, cioè, crea della negatività, perché ci sono quelli che magari lavorano e quelli che non lavorano. Quelli che lavorano non sono premiati e quelli che non lavorano non sono castigati o viceversa, cioè capisci? Quindi diventa anche un mezzo per disincentivare quelli che vogliono darsi da fare. Quindi così si perde continuamente competitività. Grazie Giambattista, sei stato molto chiaro. Io invece adesso voglio chiedere a Sergio Rizzo di farsi un po' Sherlock Holmes, come dire, in questo momento. Sei pronto, Sergio? Tu hai delle doti investigative, fai le inchieste. Quindi. Senti Sergio, secondo te questa lettera dei ribelli che vogliono chiedere a Berlusconi di farsi un po' più in là, di farsi un po' più... Chi l'ha scritta? Visto che tutti dicono io no, chi è stato secondo te? Perché ieri Giuseppe Di Saro, se non sbaglio, senatore del PDL, aveva detto: io l'ho vista, è girata sia alla Camera che al Senato, non ha detto di più, però. Ma, insomma, io ho letto ieri un'intervista molto esplicita di Antonione, questo parlamentare del PDL considerato molto fedele di Berlusconi, che però a un certo punto ha preso le distanze. Non so, ci vorrebbe un grafologo però certamente c'è una situazione complessa lì, no? perché ci si rende conto che la situazione è molto difficile, moltissimi non saranno ricandidati, no? Chiaramente se si va a votare nel 2012, si va a votare, almeno questa è l'intenzione, credo, di Bossi, da quello che ho letto sui giornali, di andare con questa legge elettorale per poter... Il porcellum. Mm. Delle liste che sono delle liste, cioè in modo da poter decidere ancora lui, liste bloccate, lui chi entra in Parlamento. E questo naturalmente ha gettato il terrore nella pattuglia di quanti pensano di non essere rieletti, dice, cioè, andiamo a casa e ritorniamo a fare le nostre e quindi il paradosso è che c'è un tentativo di resistenza, e questa resistenza è direttamente collegata al fatto che Berlusconi possa passare la mano. Allora fammi capire, Sergio, paradossalmente chi vuole mandare all'interno del PDL a casa Berlusconi lo fa per salvare se stesso e per continuare a mandare avanti il governo senza arrivare alle elezioni, questo o no? Sì, più o meno credo che sia questa l'idea. Scusa, ieri Berlusconi ha detto: lascerei, mi sono stufato un po', ma penso a colleghi e figli. Ora i figli, uno dice, i figli poi come li mantengo? Non credo che sia un problema di Berlusconi, ma evidentemente lui sente questa cosa. Ma penso ai colleghi, cioè ai colleghi che non vuole mandare a casa? Cioè, perché vuol dire che penso ai colleghi e non lascio, quindi mi dispiace vederli ritornare alle loro modeste case. Sì, probabilmente in testa questo, ma sai, Berlusconi è anche uno che parla molto... l'onda dell'istintività, no? È uno che racconta le barzellette, è uno che ci delizia con delle uscite meravigliose talvolta che ci fa pensare come mai l'Italia non si rassegna a essere il paese dei balocchi dell'Europa, no? E oggettivamente abbiamo assistito a delle performance meravigliose. Lui è uno straordinario uomo di spettacolo da questo punto di vista, quindi tutte le cose che lui dice vanno un attimino, come dire, calibrate attraverso queste lenti, secondo me. E, magari i figli sono anche i suoi, non so, posso immaginare. No, i figli sono suoi. Certo, no, in che senso? Penso ai miei colleghi e ai figli, forse non penso ai figli dei colleghi, ma forse... ai suoi. No, infatti questo ti dicevo, ai figli uno può pensare, dice, i figli poi come li mantengo, no? Penserà giustamente, Berlusconi si fa questo problema, io ho ben 5 figli, come li mantengo poi se mi ritiro da Poli? Però invece dei colleghi mi chiedevo se era affetto, se era paura di mandarli a casa, se... Ma dunque lui intanto lui ha un grande problema personale con Bossi, no? Perché però tutti i giorni dicono che si amano, i due si amano profondamente, i due sono anche molto legati, sono anche molto personalmente legati. Berlusconi è uno che l'ha molto aiutato quando Bossi ha avuto la sua malattia, salute, eccetera. Senti, a proposito della malattia, scusa, mi viene in mente che Renzi ha detto a Ballarò qualche giorno fa, ma ancora ieri sera alla convention, dice: uno come Bossi sta male, quindi se quelli del PDL, la maggioranza e la Lega gli volessero bene, dovrebbero accudirlo. Tu sei d'accordo? Invece che fargli fare il ministro. Io sono abbastanza d'accordo circa il fatto che per avere degli incarichi così importanti e sostenere un peso di un incarico ministeriale bisogna essere in buona salute. Quindi io credo che se uno non si trova nelle condizioni psicofisiche buone per fare il ministro dovrebbe riconoscerlo. E di nuovo qui naturalmente ancora per diversi minuti c'è il numero verde aperto per voi, 800 24 0024. Vi ricordo che poi la trasmissione, se l'avete persa, se invece la volete assolutamente riascoltare, qualsiasi motivo insomma abbiate, potete riascoltarla sul sito di Radio 24 oppure sulla pagina Roberta Giordano. Non ci sono più le mezze stagioni in pagina Facebook. Adesso però c'è anche un'altra incursione, qui diamo spazio. La nostra Maria Laura Rodotà del Corriere della Sera, cosa hai osservato, cara Maria Laura? Buongiorno, che t'ha colpito in questi giorni? Beh, direi che questi giorni hanno colpito tutti pesantemente, nel senso che è stata una settimana abbastanza tragica per l'Italia e per l'Europa, siamo tutti molto in ansia, pensavamo succedessero delle cose che non sono successe e quindi siamo ancora molto molto in ansia. Il mio pensiero, anche ascoltando Sergio Rizzo, parlando delle Maserati, parlando di Renzi alla Leopolda, è sintetizzabile con una battuta che forse sembra un po' vetero. Sentiamo, a volte il vetro fa moda, sentiamo, un po' vintage. Moda? Sì. Da stamattina che penso ad avvenire Hillary Clinton. Hillary Clinton, hai visto che ha più consenso in questo momento di Obama? Ma quindi... guarda, io onestamente ho seguito la campagna elettorale del 2008 in America e io ero onestamente, l'ho scritto molte volte, per Hillary. Ora, come capita a noi signore un po' anziane, a un certo punto ci danno ragione. Ora Hillary, secondo i sondaggi, stravincerebbe contro qualunque candidato repubblicano, è molto apprezzata come segretario di Stato e considerata una politica abile e solida. E mi chiedo se anche noi, come dire, non rischiamo adesso di incorrere in una infatuazione obamiana con la supercazzola, come si direbbe in Amici miei, perché io conosco Matteo Renzi, lo trovo molto simpatico, ma ogni volta che lo vedo in TV penso al Conte Mascetti di Amici miei, che è una grande opera della cultura fiorentina, sì. Quando fa tutti col suo discorso della supercazzola con lo scappellamento a destra. E mi chiedo se invece di pensare a rottamazioni, come dire, mediaticamente accattivanti a destra o a sinistra, sul forum che coordino sul Corriere, Avanti Pop, una ragazza geniale definisce Renzi un Michael J. Fox che ha mangiato troppi pan di stelle. Non si debba trovare invece che il nostro Obama la nostra Hillary? Ma insomma, secondo io me qualcuna ce n'è. Spero sempre in una donna. Ho sentito fare molto il nome della Finocchiaro in questi giorni. Di donne ne abbiamo viste di ogni genere negli ultimi anni, sì. Quindi non una donna prescindere. No, siamo d'accordo. Però come il sospetto vago che a Maria Laura Rodotà non piace tanto Renzi. Grazie Maria Laura, rimaniamo grazie con questo dubbio. Grazie a te. E vorrei sentire brevemente Stefano da Perugia. Stefano, tu sai, tu hai il dono della sintesi, non è vero Stefano? Io lo sento già che tu hai questo dono, sì, proprio. Sì, stai cercando già. Pronto? O forse Stefano, mi dicono che c'era Luca da Roma prima, perdonami Stefano, perdonami. Luca, sì. Luca, sì, scusa. Sono qui. Anche tu hai il dono della sintesi, sicuro, lo so. Allora sì, prima parlavate del rischio, della paura, diciamo, dei deputati e dei senatori del centrodestra di non essere rieletti, sì, perché se si andasse col torcello. Volevo anche sottolineare la grande paura, e questo è un problema trasversale, lo dico dai elettori di sinistra, che quindi riguarda anche il centro-sinistra, che questo Parlamento non sarà liquidato così facilmente, perché c'è un problema della maturazione della pensione che riguarda molte centinaia di deputati e senatori. Questo è un tema fondamentale, perché adesso bisogna completare tutta la legislatura di 5 anni per avere la pensione vitalizia, mentre prima bastava anche un solo giorno essere in Parlamento. Grazie Luca, perdona, ti sintetizzo io. Stefano da Perugia, visto che ti avevo citato, però proprio diciamo quei 42 secondi scusami. Allora, Stefano, poi sì. Permetto, io ho 67 anni, sono uscito non molto dal lavoro, sì, e quando sono entrato tanti anni fa c'era il famoso motto largo ai giovani, sono uscito dal lavoro largo ai giovani, solamente che una volta era comprensibile che le persone anziane rimanessero fino alla pensione, perché erano dei manuali viventi di esperienza. Oggi ovviamente questa è una cosa che è passata in secondo piano. Diciamo che noi siamo abituati ad avere dei parlamentari che sono i più vecchi entrati con le crociate, i più giovani con le battaglie di Lepanto, e i nostri giovani sono cinquantenni che ancora devono dire che farò la grande. Quindi siamo alle guerre puniche. Stefano, ti ringrazio, chiedo perdono a Franca da Pisa che chiami prossimo sabato, Franca, all'800240024, perché adesso abbiamo un altro appuntamento, perché a Valeria Della Valle, linguista della Sapienza di Roma, io voglio chiedere in questi secondi flessibilità, questo termine che si continua a ripetere, flessibilità, ma che cavolo vuol dire flessibilità? Dappertutto, allora, ovviamente viene dal latino tardo flexibilitatem, e poi la parola col significato per indicare la caratteristica di ciò che è pieghevole, duttile, anche in senso figurato, non solo in concreto, ha fatto una gran strada nella nostra lingua a partire dal 400. Ma arriviamo ai nostri giorni, a quello che mi chiedi. Da qualche tempo si parla, in particolare in questi giorni, di contratti flessibili, licenziamenti flessibili o direttamente di flessibilità. In uscita invece di dire licenziamenti facili. E allora, commento velocissimo, siamo di fronte a un altro bel esempio, non è certo il primo, di eufemismo e quindi di manipolazione linguistica nel linguaggio della politica. Grazie cara Valeria Della Valle, un dono della sintesi straordinario. Mentre a Sergio Rizzo, in questi pochi secondi che ci rimangono, io volevo chiedere ancora 3.000 cose, per esempio perché Tremonti non ha firmato la lettera di Berlusconi all'Unione Europea, proprio il ministro dell'economia, e poi su Fini che ha detto Lady Bossi è una baby pensionata perché è andata in pensione a 39 anni, polemiche, tafferugli in Parlamento, molti ascoltatori hanno scritto opinioni sulla pagina Facebook, chi è d'accordo dicendo sì, ha ragione, ha detto la verità, e qualcun altro invece è d'accordo con la Gelmini che era intervenuta, ha detto è stata una caduta di stile. Ma siccome il tempo corre, io ti voglio fare una domanda veramente cruciale, Sergio Rizzo. Tu sei uno che dice facilmente ti amo? No, perché guarda, ho letto questa ricerca questa settimana, una ricerca serissima dell'Università della Pennsylvania che ha scoperto, no? Ha fatto fuori un luogo comune, ha scoperto che gli uomini dicono molto più spesso delle donne ti amo, lo pronunciano con una frequenza tripla rispetto alle donne, un vero record del ti amo. Si pensava che le smancerie, così bisogna di sentirselo dire, fosse delle donne invece degli uomini. Tu invece continui insomma a rafforzare questo luogo comune che gli uomini più difficilmente, ecco, era così una confidenza, giusto in chiusura. Caro Posso solo fare una correzione rapidissima. Sì. La signora Bossi non è andata in pensione a 39 anni, ma a 42. 42, beh, insomma, 3 anni in più sono sempre, no? Diciamo uno sforzo. Per la precisione. Molto bene, sempre precisissimo Sergio Rizzo, anche col suo libro Licenziare i Padri Eterni insieme a Gianantonio Stella. A presto Sergio, buona raccolta di olive. Grazie. E da Roberta Giordano, Sereni Orizzonti. A tutti.